Radio 24 Reportage. Alternanza scuola-lavoro. Fra buone pratiche e abusi, prove di dialogo fra scuole e aziende. Di Maria Piera Ceci. Quest'estate li si vede dappertutto, nelle anagrafi, nelle biblioteche, negli ospedali, ma anche fra i tavoli dei McDonald's. Sguardo un po' sperduto, spesso un po' annoiato, non si fa fatica a riconoscerli. È l'esercito degli studenti chiamato a fare l'alternanza scuola-lavoro, come previsto dalla legge 107 della buona scuola. 200 ore obbligatorie nel triennio dei licei, 400 ore nei professionali e negli istituti tecnici. Tante ore per delle scuole, soprattutto i licei, non abituate ad avere rapporti con il mondo del lavoro. 1,5 milioni gli studenti che nel prossimo anno scolastico, anno in cui la riforma entrerà a regime per tutto il triennio, saranno spediti ad assaggiare un'esperienza, come è giusto che sia in un paese dove i giovani spesso arrivano alla laurea senza aver mai messo piede in un ambiente lavorativo. E allora si sta vedendo di tutto. Dirigenti scolastici in difficoltà che invitano le famiglie a darsi da fare e piazzare i figli nell'ufficio dell'amico. Scuole di lingue all'estero che hanno usato il business offrono pacchetti di lezione e settimane lavorative più o meno ben costruite, ma sicuramente care. Un sistema che va dunque messo a punto. Il ministro del lavoro Poletti promette da settembre 300 tutor che aiutino scuole e aziende ad incontrarsi. Si spera che arrivi presto anche un registro di istituti e aziende disposti ad accogliere i ragazzi. In molti casi si fa l'esperienza direttamente a scuola con l'aiuto delle aziende. Così è successo all'Istituto Tecnico Giulio Natta di Bergamo, che è stato premiato come miglior progetto di alternanza. La dirigente scolastica Maria Modeo ha raccontato come ha funzionato al microfono di Alessio Maurizi. Noi in realtà nasciamo vecchi, nel senso che abbiamo realizzato un bellissimo progetto con un'azienda, la Radici Group, che già con noi realizzava progetti di alternanza, però intesi come tirocinio individuale, cioè la classica alternanza: i ragazzi vanno in azienda, comunque insomma applicano quelle che sono le loro conoscenze in azienda, magari in settori di produzione e di operatività molto settoriali. In questo caso speciale ci siamo messi attorno ad un tavolo tra diciamo responsabili dell'azienda, responsabili di settori anche di altissimo livello. Ci può dare un consiglio però, preside, invece lei l'ha detto prima, no? A quelle scuole che dove l'alternanza scuola-lavoro non funziona, non riesce, li mandano a pulire i gabinetti, come mai? La soluzione è una e una soltanto: scegliersi. Le scuole devono scegliere le aziende, devono scegliere quelle imprese, quegli imprenditori o anche quegli artigiani, perché di fatto non è necessario un lavoro con un grande gruppo, bastano comunque delle persone intelligenti, e scelgono argomenti, tematiche che sono di sviluppo e di interesse reciproco. Questo è il segreto. Se non si riesce a trovare questa azienda, si possono anche trovare altre soluzioni di impresa formativa simulata. E questo consente comunque ai ragazzi di evolversi verso l'etica del lavoro in un modo altissimo. Da Bergamo ad Udine, all'ISIS Malignani, dove i ragazzi hanno creato un'impresa nell'ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro. Hanno ideato un prodotto e hanno vinto il premio Migliore Impresa in Azione Junior Achievement 2017. Luca Nadalutti fra gli studenti imprenditori. Allora, abbiamo inventato lo Strisher. Lo Strisher è questo burro cacao a monodose. Il vantaggio è quello di non dover entrare in contatto con lo stick del burro cacao più volte, che col passare del tempo diventa sempre meno igienico, ma si utilizzano sempre ogni volta queste monodosi di burro cacao biodegradabili. Che ne sarà ora di questa vostra idea? Allora, dovremmo brevettarla a brevissimo, e poi insomma non si sa mai che dopo riusciamo a continuare questa nostra esperienza anche dopo il progetto. Chi vi ha aiutato in questo progetto? Allora, innanzitutto abbiamo avuto il supporto dei nostri professori, e poi abbiamo avuto anche un sostegno da parte della Biofarma, che è un'azienda qua del Friuli. È stato divertente, è stato molto faticoso, perché insomma abbiamo dovuto lavorare per parecchi mesi. Abbiamo dovuto lavorare di squadra, quindi è stato decisamente molto complicato, anche perché insomma non tutti sono abituati a dover affrontare compiti di gruppo, però sì, è stato molto divertente e anche molto soddisfacente come lavoro. Siete stati dei piccoli imprenditori? Sì, esattamente, anche perché non abbiamo solo portato un prodotto, ma dovevamo proprio simulare un'impresa, quindi anche la parte del marketing, la parte del business plan, quindi la parte economica. È stata una vera e propria azienda per questi mesi. Ma non dappertutto il meccanismo funziona. Una preside dell'alberghiero Ipsar di Sassari ha impedito che i ragazzi venissero impiegati nell'alternanza per tutta l'estate. La scuola non è un ufficio di collocamento, ha spiegato di fronte al racconto di studenti impiegati dagli hotel, di fatto lavoratori a costo zero. In Puglia, secondo una ricerca dell'Unione degli Studenti, il 23% dei ragazzi intervistati dichiara di non essere stato seguito da tutor aziendale e scolastico, e il 76% pensa di aver sottratto tempo prezioso allo studio e alle attività curriculari. Fino alla denuncia di veri e propri abusi, come quello che vede protagonista questa ragazza che preferisce non rivelarci il suo nome. Allora, è stata un'esperienza un po' strana, perché io, frequentando un alberghiero, settore cucina, mi sono ritrovata in una fiera a fare volantinaggio. Questo è stato quando è iniziata l'obbligo di alternanza scuola-lavoro, quindi i professori non sapevano bene come funzionasse, non sapevano bene come far fare a tutti quanti queste 400 ore di alternanza, e quindi si sono trovati un po' alla sprovvista, no? E mi sono ritrovata a fare volantinaggio per 9-12 ore in piedi, con una pausa di una mezz'oretta dove potevo mangiare e andare in bagno. Ma durante questo periodo di alternanza hai segnalato ai tuoi insegnanti che qualcosa non stava funzionando? Sì, l'ho segnalato e hanno provato a dividerci maggiormente in turni, ma questo dopo, perché inizialmente pensi che sia normale perché non hai avuto esperienze prima, quindi non sai bene come funzioni. Quando l'hai segnalato ti hanno diminuito il numero delle ore, ma il lavoro è rimasto quello, volantinaggio? Sì, esatto, in una fiera di Bari. Quindi per te, insomma, questa esperienza non è stata molto formativa? Non proprio, perché non ha seguito appunto il mio percorso di studi, che è quello di lavorare in cucina. Fortunatamente sembra che comunque col tempo stiano capendo come funzioni e stiano cercando di migliorare il percorso di alternanza. Ad esempio, quest'ultimo percorso che farò, che mi è stato proposto, avrà alla fine una valutazione reciproca, cioè l'alunno verrà giudicato dal tutor aziendale che sarà lì, viceversa l'alunno potrà giudicare, diciamo, dare una valutazione al posto in cui ha fatto alternanza, perché non si può mandare in posti a caso dove non si sa come si viene trattati, dove magari ci sono non c'è coerenza anche con il percorso di studi, perché tu di cucine non hai visto neanche l'ombra. C'è stata anche l'esperienza positiva in cucina, però è capitato di pulire bagni e di fare volantinaggio. Mettere in rete le buone pratiche, denunciare gli abusi, registrare insomma un meccanismo, quello dell'alternanza scuola-lavoro, che deve diventare un importante strumento di crescita per gli studenti. E gli imprenditori sono pronti a mettersi in gioco. Giovanni Brugnoli, vicepresidente per il capitale umano di Confindustria. Il tema dell'alternanza è un importantissimo driver di crescita per i nostri ragazzi, che vuol dire avere una traiettoria per il futuro dei nostri giovani. L'interazione tra scuola e azienda si era un pochettino persa negli ultimi decenni, e questo importante provvedimento ha riportato al centro l'educazione che si può avere anche all'interno delle imprese. È evidente che dopo un lungo periodo di inascolto e inattività congiunta alcune difficoltà ci sono. Io credo che lo sforzo deve essere che le imprese si devono mettere disponibili con un approccio differente nei confronti degli istituti, e le scuole a loro tempo devono aprire le proprie aule alle imprese che vogliono accompagnare questi ragazzi a un nuovo concetto di industria. Si segnalano anche degli abusi da parte delle aziende. Ma credo che gli abusi vadano perseguiti per legge, giustamente. Però credo che pochi episodi che possono essere accaduti durante i 2 anni di alternanza scuola-lavoro non possono far prescindere dal risultato che abbiamo avuto con le imprese virtuose, perché credo che un imprenditore che deve abbassare il proprio costo del lavoro con dei ragazzi in alternanza, credo che non sia un imprenditore volto al 4.0, ma credo che le buone cause di alternanza scuola-lavoro vadano premiate e anzi vadano amplificate, proprio perché si deve creare quel volano all'interno delle piccole e medie imprese per far sì che l'anno scolastico che andrà ad iniziare a settembre abbia una platea di imprese molto più numerose. A questo proposito, state pensando a una sorta di riconoscimento per le aziende virtuose? Esattamente, lanciamo proprio il bollino per la qualità, l'alternanza di qualità, proprio per premiare quelle imprese che si sono messe in gioco in maniera importante e in maniera costante. E soprattutto premiamo le aziende che nel corso degli anni lo hanno fatto come proprio modo di essere. Non deve essere uno spot di un anno, ma deve essere un cammino costante costruito insieme agli istituti tecnici, ai licei, proprio per far crescere la voglia di industria che ci sono nei nostri giovani. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.